Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Buon Natale da Easy Pop, dal Bolognese Volante. Puntata speciale questa del 25 dicembre 2022 di Easy Pop, con un The Best di tutti i brani che Easy Pop ha trasmesso nel corso del 2022. Cominciamo quindi con la selezione dei primi quattro brani, che comprendono Destro con Un Lento, Gazzelle, Non lo dire a nessuno, Mania, Il suono del tuo nome, Nada, Chi non ha. Buon ascolto, a tra poco. Volevo solo dirti basta con le scuse, con le storie senza fine, ok, va bene. Non ti vedrò mai più bene, perché addosso hai sempre i tuoi occhiali da sole, sulla bocca labbra che non sono le mie, ma ti manco almeno un po'. Che se mi dici no va bene uguale, sì però io ti manco almeno un po'. E se davvero mi vuoi, se mi vuoi e non si vede lo sai, non lo sai che tu mi vedi, mi passi accanto e non mi guardi mai. E se davvero mi vuoi, se mi vuoi e non si vede lo sai, non lo sai che tu mi vedi e mi passi accanto e non mi guardi mai. Cara, hai già vent'anni sulla schiena, io sempre solo paura, non ballo ma se vuoi venire ci facciamo un lento, scema, non credere che sia finita, non l'hai mai stato fino ad ora. Eppure a furia di gridare abbiamo perso la voce, ma ti manco almeno un po'. Che se mi dici no va bene uguale, sì però io ti manco almeno un po'. E se davvero mi vuoi, se mi vuoi e non si vede lo sai, non lo sai che tu mi vedi, mi passi accanto e non mi guardi mai. E se davvero mi vuoi, se mi vuoi e non si vede lo sai, non lo sai che tu mi vedi e mi passi accanto e non mi guardi mai. Ma ti manco almeno un po'. Che se mi dici no va bene uguale, sì però sai, forse è meglio così. Sì, non lo dirò a nessuno. Quando sei felice ti gira la testa, che non importa a nessuno. Se tutto va bene ti senti leggero, non ti prende nessuno. Se cadi a 200 chilometri a terra dal tuo pezzo di cielo, nel tuo amico più vero, nelle foglie di un albero che sfiorano tutto. Io mi sono bevuto tutto. Io mi sono bevuto tutto. Io mi sono bevuto. La spazzatura delle tue follie, le mie. Non lo dirà nessuno. Quando sei felice ti senti al sicuro, che non importa a nessuno. Se tutto va bene ti senti un po' meglio, che non ti salva nessuno. Se corri veloce più forte del vento, che non ti sposta ma tremi, mano sul tetto, come quando mi odiavi e mi strillavi. Tutto, io mi sono bevuto tutto, io mi sono bevuto tutto, io mi sono bevuto tutto, tutto, tutto, comprese tutte le mie bugie, 3,5 litri di malinconie, la spazzatura delle tue follie. Vedere il mare da un'astronave. Sì, certo lo so, sto sempre qui a fantasticare. Ma se non vuoi bucire, ho qualcos'altro che puoi sentire. Avrò una radio in stereo digitale e ti canterò la musica. Sa e chissà non glielo dico.

l'albero, ma chi c'è intorno a te? Questo Natale sembra tutto così magico, perché sei qui con me. Nonno sistema l'ultimo pastore sul presepe, la nonna con un cenno dice pronto a tavola. Si aspetta a mezzanotte che arrivi Babbo Natale, tanti regali sotto l'albero ci porterà. I bambini fanno festa, dolci regali nella testa, tutti i problemi vanno in stand by, da non mollare ce la farai. Pronti per festeggiare, riuniamo tutti a casa per il Natale. Con un biglietto con dentro scritto Buon Natale a te. Questa notte la ricorderò come una notte magica. I tuoi occhi che parlano di quanto sei fantastica. Ma dai, ascolta. Ma dai, stringimi, siamo bellissimi. Questa notte siamo io e te. Molla tutti e vieni via con me. Troviamoci a Parigi oppure Spagna. Guardami, baciami come sai tu, senza pensieri. Andrea Riccio e la sua Notte Magica termina la prima parte di questa puntata numero 50, speciale Natale di Easy Pop. Non andate via, a tra poco, dopo la pubblicità. Guardami, baciami come sai tu, senza pensieri il tramonto va giù. Guardami, baciami come sai tu, senza pensieri. Buon Natale da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Buon pomeriggio e buon Natale anche da Franco Paoletti. Benvenuti a questa seconda parte di Easy Pop in versione puntata speciale di Natale. Ascolteremo ora quattro brani in sequenza tra quelli scelti e andati in onda durante questo anno di Easy Pop e cominciamo con Marco Baroni, Cenere, Marco Guazzone, Al posto mio, Anna Ira, Dimensione parallela e Cartello, featuring Eneri, Sto bene. Thank you. voce, anche se questo tempo bastardo corre veloce. E mi illudo che dentro un orgasmo si trovi la pace, ma è soltanto un impulso meccanico, a volte mi piace, solo a volte. Ubriaco di acqua mischiata a discorsi banali e tabacco di fine serata. E la strada di casa l'ho persa quando sei finita, tra gli spasmi di un pianto che arrivi in mezzo a una risata. Maledetto me, che non capisco cosa sono. Alla fine sempre un rischio, l'abbandono. Ma se non sei disposto a dare, perché mai dovresti ricevere? Tutto parte con una scintilla, l'ennesimo fuoco, l'arrivo dell'acqua, non siamo che cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Io che l'anima faccio la punta tutti i giorni per delineare una traccia precisa. La radice del mio sentimento è ricerca costante. Puntualmente la trovo spogliata, setata o recisa. Tutte le volte che non capisco cosa voglio, alla fine sempre il gioco dell'orgoglio. Ma se non sei disposto a dare, perché mai dovresti ricevere? Tutto parte con una scintilla, l'ennesimo fuoco, l'arrivo dell'acqua, e non siamo che cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Adesso che vorrei affondare in un paio di braccia e dirti che sono una roccia, anche se mi si legge benissimo in faccia. Che mi manca la noia, un elenco infinito di cose da sistemare, le pareti di un sogno sbiadito e la voglia che avevo di riverniciare. Se una cosa si vuole, non sono sicuro che basti davvero chiedere. Tutto parte con una scintilla, bruciamo nel fuoco, non basterà l'acqua, rimane la cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Cenere, cenere, cenere. Non sono geloso ma soltanto curioso, e sto provando a non provarti a scrivere. E credimi, lo giuro, non c'è niente di male. Ho visto quella foto, sembri felice anche senza di me. Avrei voluto solo che me l'avessi detto tu, che qualcun altro adesso invece c'è ed è seduto al posto mio. Gli racconti mai di noi, della scatola di stelle, delle coperte sul divano, il primo bacio dato in via Cavour. Gli racconti mai di noi, di quanto adesso siamo sconosciuti, mentre ancora il tuo biglietto in tasca con l'invito al cinema. Lui di noi che cosa sa? Lui di noi che cosa sa? Lui di noi che cazzo sa? E se mi stessi cercando nel posto sbagliato, perché più lo guardo e più è chiaro che lui mi assomiglia. Avrei voluto solo che me l'avessi detto, che qualcun altro adesso invece c'è, da oggi ha preso il posto mio. Gli racconti mai di noi, con gli occhi chiusi, mano nella mano, e di quel viaggio in Indonesia che non abbiamo fatto mai. Gli racconti mai di noi, delle corse alla stazione, e quanto ridevamo al buio dopo il sesso in macchina. Parte preferita del suo corpo. Lui di me che cosa sa? Lui di me che cosa sa? Lui di Adesso sai, vorrei chiederti, ma tu mi hai mai amato? Galleggio su questo pianeta come una cometa, mi eclisso in una sera. Mi hai gettata nello spazio, ho Mercurio dentro e Venere all'esterno. Ruota attorno al sole, mi potrei bruciare. Dimensione parallela, i miei occhi con chiglietti hanno seduto le perle, ma le perse su un altro pianeta. Dimensione parallela, mi hai lasciato su Marte, sono tra tutte le stelle che non mi colleranno stasera. Mi trovi dove è sempre notte, Nettuno, io diamante, ti piovo sulla pelle, scompaio nel tuo buco nero, mi blocchi sotto zero, ti nutri del mio gelo. Raso attorno al sole, mi vedo bruciare. Guardami dalla terra, in cielo brilla una stella in più. Dimensione parallela, i miei occhi con chiglietti hanno ceduto le perle, ma le persi su un altro pianeta. Dimensione parallela, mi hai lasciato su Marte, sono tra tutte le stelle che non mi colleranno stasera. Galleggio su questo pianeta come una cometa. Mi sa che nemmeno questa volta basta la pioggia a spegnere questo fuoco che brucia, questo fuoco che brucia. Mi sa che il vento è stanco, l'aquilone volta ritorno a casa per evitare certe parole amare. Vorrei cambiare, svoltare, incidere una traccia che non ti farò ascoltare. La tengo per me come i pensieri. Vorrei parlarti, guardarti con occhi più sinceri, ma i muri ascoltano, loro lo sanno, loro lo sanno, sanno chi cazzo eri davvero ieri. Secondo giro di brani tra quelli scelti da Easy Pop per questo 2022. E sono Federica Neglia, Da Cuba a Panama, Cuomo, Sta succedendo, Alice Cucumo, Il cuore in una scatola è Giuseppe Cucè, di Estate non si muore. dirti delle parole, quante volte avrei voluto gridare, quante volte ho preso le misure per starti accanto, strappare i bordi per trovare spazio, sentire ogni singola parola, cercare il giusto equilibrio giorno dopo giorno mentre pago il conto, giorno dopo giorno. Fossero anche un po' le mie. Dicono col tempo che poi passa anche l'inverno e fai presto a perdonare l'inferno. Sapere che ogni singola paura parla solo a chi l'aspetta giorno dopo giorno senza fare sconto. Giorno dopo giorno. Vincenzo scrive di noi e di come si sposano la pasta, la salsa, la melanzana. Poi c'è Rosa che canta di noi e di come ci guardano. Cade linfa nera sul davanzale mentre in alto esplodono fuochi e pietre che danzano. E il sangue che scorre sopra le case, un ciclope che lancia pietre nel mare, e la barca di un pescatore. Siamo mare circondati dall'acqua. Facciamo a pugni con la nostra coscienza. Siamo tutti ricchi dentro una barca. Con il cuore in pace e le mani in tasca. D'estate non si muore mai. Non ti vedi sui conti sui vecchi, non ti vedi sui conti sui vecchi. Io sono un fico d'India che nasce, tu sei Giovanni che lotta e poi muore. Una strada che brucia e che incendia distese. Una cicca che scagli come una freccia che va dritta al cuore. A capoci esplodono mentre c'è il sole. È un temporale non d'altrove. Siamo un mare circondati dall'acqua. Facciamo a pugni con la nostra coscienza. Siamo tutti ricchi dentro una barca. Con il cuore in pace e le mani in tasca. Il tempo scorre così lentamente. Un altro giorno inventerò. Un altro giorno inventerò. D'estate non si muore mai. Siamo mare circondati dall'acqua. Facciamo a pugni con la nostra coscienza. Siamo tutti ricchi dentro una barca. Con il cuore in pace e le mani in tasca. Il tempo scorre così. Gli ultimi due brani che chiudono questa 50esima puntata di Easy Pop, l'ultima per questo 2022, sono Lisa Fabris, Ubriaca, D'Arte, Precipitiamo. Gira tutto e mi sento un po' come Luna Park, Italia. siamo a Milano, a Rio, c'è nella fin qua, col cuore sotto un passamontagna, questa intolleranza non si calma, la mia mente s'appanna. Hai detto ti saresti fatta da parte, ma sto cuore non c'ha ancora le scarpe, brucia come l'asfalto delle autostrade, non capisci ci facciamo male, ma tu no. Ti ho rimossa in un secondo come un videogioco rotto, mi cade il mondo addosso, è meglio se sparisci. Facevamo i giocoli sulle strisce di un parcheggio ed io contavo solo su di te. Ora precipitiamo, passano interi pomeriggi senza dirci niente. Nei tuoi silenzi io ci stavo bene, ora precipitiamo. Siamo due bimbi e facciamo casino, se non l'hai capito non sono guarito. Brucia come la foresta dell'Australia, soffro di vertigini ma è così strano, ma tu no. Ti ho rimossa in un secondo come un videogioco rotto, mi cade il mondo addosso, è meglio se sparisci. Facevamo i giocolieri sulle strisce di un parcheggio ed io contavo solo su di te. Ora precipitiamo, passavamo interi pomeriggi senza dirci niente. Nei tuoi silenzi io ci stavo bene, ora precipitiamo. Ho imparato a stare da solo, sudo freddo e non mi... Termina qui questa puntata speciale di Natale di Easy Pop. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domenica 8 gennaio 2023 e vi ricordiamo la campagna abbonamenti ancora in corso fino al 6 gennaio. È molto importante per sostenere la vostra radio e trovate tutte le istruzioni sul nostro sito www.radiocittafujiko.it/abbonamenti. E che dire, non ci resta che farvi tanti tanti auguri di buon Natale, buona fine e buon principio. Da Franco Paoletti e dal bolognese volante, bye bye bye bye. Ora precipitiamo. Buon Natale da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko.